La strada ferrata che serve Leeds e Bradford scende lungo la profonda valle del fiume Eyre, lento e pigro a differenza del Wharfe, suo impetuoso vicino. Lungo questa linea ferroviaria, a circa un quarto di miglio dalla città omonima, la stazione di Keighley. L'importanza di Keighley e il numero dei suoi abitanti sono cresciuti considerevolmente in questi ultimi 20 anni grazie al rapido estendersi del mercato che assorbe la produzione dei tessuti di lana pettinata delle manifatture locali, che danno lavoro alla maggior parte della popolazione in quella zona dello Yorkshire di cui Bradford è centro e metropoli. Keighley si va dunque trasformando, da popoloso villaggio prevalentemente rurale, in un'ancor più popolosa, piccola e fiorente città moderna. Il forestiero, di passaggio, capisce subito che a mano che le case, i cui tetti a doppio timpano sporgono ad angolo retto lungo il tracciato delle vie, le quali da parte loro tendono ad allargarsi, sono abbandonate dagli inquilini, esse vengono abbattute e sostituite con costruzioni moderne, consentendo così, grazie al differente stile architettonico, maggiore spazio al traffico. Le curiose anguste vetrinette di 50 anni fa cedono il posto ad ampie vetrine protette da cristalli. Quasi ogni dimora sembra destinata ad ospitare una qualche attività commerciale. Attraversando affrettatamente la città, è difficile individuare l'abitazione dell'indispensabile medico o quella del non meno necessario legale, tanto poco si distinguono dalle altre le case adatte ad ospitare i professionisti o gli altri membri della classe media. Così caratteristiche numerose invece in quelle nostre antiche città raccolte all'ombra dei solenni monumenti destinati al culto. Di fatto, nulla può apparire più diverso dal ritmo di vita signorile, assopito, pittoresco, tipico di un insediamento meridionale, cresciuto lentamente intorno alla sua cattedrale, da quello che regola il rapporto sociale, il modo di pensare, le norme etiche estese fino alla politica e alla religione in un recente insediamento manifatturiero del Nord, quale è oggi Keighley. In ogni modo, il suo aspetto attuale promette bene dal punto di vista di una futura imponenza, anche se questa sarà ottenuta a scapito della nota pittoresca. La pietra grigia abbonda sul posto e le file delle case che con essa vengono costruite hanno una non so che solida maestà tutta loro, dovuta all'uniformità delle strutture che garantiscono lunga durata. Le cornici delle porte e le mensole che incimano le finestre, anche nelle costruzioni più modeste, sono ricavate da monolitici blocchi. Non vi sono quelle strutture di legno dipinto che richiedono una costante manutenzione per evitare il deterioramento, e la pietra è conservata pulitissima dalle efficienti massaie dello Yorkshire. Le rare occhiate che un passante occasionale può gettare negli interni rivelano generalmente abbondanza di cibarie e le diligenti e solerti abitudini delle massaie. Ma il suono delle voci è duro, l'intonazione è aspra, ben lontana dal rivelare la naturale tendenza per la musica tipica di quel distretto che ha già dato altri musicisti al mondo dell'armonia. I nomi che si leggono sulle insegne dei negozi, di cui quello appena citato è un esempio, hanno il sapore e il profumo tipici del luogo e suonano strani perfino agli abitanti della contea limitrofa. La città di Keighley non dilegua mai completamente nei campi, anche se lungo la strada che conduce a Haworth le case si fanno meno frequenti, a mano che la china sale verso grigie colline, dalle cime tondeggianti verso ovest. Per prime si incontrano alcune ville lontane dalla strada, appena quanto basta da far capire che non possono appartenere a qualcuno che, chiamato urgentemente presso chi soffre o si trova in pericolo, sia disposto ad accorrere abbandonando il comodo posto vicino al caminetto. Il dottore, il legale e l'ecclesiastico vivono a portata di mano e non in periferia, in una casa schermata da siepi e arbusti. Nelle città non si cercano colori vividi. Quel tanto che se ne incontra è nelle merci esposte in vetrina, non nelle sfumature del fogliame e nelle variazioni del cielo, ma in campagna ci si aspetta una gamma di tinte gaie e vivide e perciò, lungo il percorso da Keighley a Haworth, si prova un certo disappunto alla vista del grigio monotono e neutrale che riveste ogni cosa vicina e lontana. La distanza che separa le due località è di circa 4 miglia e, Come ho già detto, le ville, le grandi manifatture, le file di piccole case operaie, una occasionale fattoria con i suoi adiacenti fabbricati rurali intercalata qua e là, non permettono di parlare di campagna vera e propria. Per 2 miglia la strada corre su un suolo abbastanza piano, con le lontane colline sulla sinistra, un piccolo corso d'acqua di montagna fluisce attraverso i campi sulla destra e fornisce forza idrica alle manifatture costruite sulle sue sponde. L'aria è offuscata. La luce è attenuata dal fumo che sale dalle ciminiere dei numerosi complessi industriali e dai comignoli delle case. Il suolo nella valle, o meglio, laggiù in fondo, secondo il termine locale, è ricco, ma a mano che la strada sale, la vegetazione impoverisce, non prospera, sussiste. Intorno alle abitazioni non vi sono alberi, ma solamente arbusti e cespugli. Muri di pietra sostituiscono ovunque le siepi. I raccolti che crescono negli appezzamenti di terra arabile si riducono a pallide chiazze grigio-verdi di orzo dagli stenti steli. Il villaggio di Haworth si presenta bene in vista. Un eventuale viaggiatore, distante ancora 2 miglia, può già scorgere sullo sfondo di un ampio panorama, in ascesa, rivestito di opache eriche viola, le sue case scaglionate lungo la china ripidissima di una collina. In vetta c'è una chiesa e là muore la stretta via tracciata fra le abitazioni. Oltre, l'orizzonte è segnato da una linea continua di altre colline simili, a gigantesche onde pietrificate, i cui avvallamenti rivelano altre alture di uguale forma e colore, coperte da lande squallide e selvatiche, che a seconda dell'umore di chi le contempla, sembrano maestose se parlano di solitudine e malinconia, ma invece opprimenti se si pensano puntellate da un invisibile zoccolo senza principio né fine. Per un breve tratto la strada, dovendo aggirare la base di una sporgenza rocciosa, sembra deviare da Haworth, ma subito dopo, attraversato su un ponticello il piccolo corso d'acqua, riprende a salire faticosamente verso il villaggio. Le lastre di pietra che la pavimentano sono sporgenti per offrire una migliore presa agli zoccoli dei cavalli, che, nonostante questo aiuto, sono perpetuamente in procinto di slittare. Le vecchie case di pietra sembrano alte in contrasto con l'angusto tracciato della via, la cui erta sembra portare verso una muraglia rocciosa. Ma dopo una brusca svolta, sbocca su un'area quasi pianeggiante che si stende davanti alla chiesa, leggermente ritratta sulla sinistra. Altri 100 metri all'incirca e il cocchiere, tutto in tensione, si rilassa, il cavallo riprende il fiato e imbocca una quieta viuzza trasversale che fa capo alla canonica di Haworth. Il cimitero si trova su un lato di questo viottolo, la scuola e la casa del sacrestano, che in passato era stata abitata dai curati, sull'altro. La canonica sorge in posizione leggermente più elevata, ad angolo retto sulla strada, dirimpetto alla chiesa che domina. La canonica, la chiesa e la scuola con la sua torretta campanaria formano 3 lati di un rettangolo sbilenco. Il quarto lato è aperto sulle lontane distese di erica. L'area di questo rettangolo è occupata dal cimitero affollato di tombe e da un contiguo piccolo giardino o cortile che dir si voglia davanti all'abitazione del parroco. Siccome la porta d'ingresso non apre sulla via, un sentiero gira l'angolo della casa e immette in un giardinetto. Sotto le finestre c'è una stretta bordura di fiori, un tempo curata con scrupolo, dove possono attecchire solamente le piante più resistenti. A ridosso del muro di pietra, che argina il cimitero circostante, crescono sambuchi e lillà intorno a un tappeto erboso quadrangolare attraversato da un sentiero inghiaiato. La casa è di pietra grigia, a 2 piani, incappellata da un tetto di pesanti lastre, le sole capaci di resistere al vento, che spazzerebbe via qualsiasi altro materiale più leggero. Deve essere stata costruita un centinaio di anni fa, conta 4 ambienti per piano, le 2 finestre alla destra di chi ritto dà alle spalle, le spalle alla chiesa, pronto a varcare la soglia, danno luce allo studio di Mr. Bronte. Le 2 sulla sinistra sono quelle del salotto dove la famiglia si riuniva. Ogni cosa porta l'impronta dell'ordine più squisito, della più scrupolosa nettezza. Gli scalini che salgono alla porta d'ingresso sono senza macchia, le piccole impannate di vetro delle finestre sono lucide come specchi. Dentro e fuori quella dimora si respira il profumo stesso della lindezza, ogni cosa parla di purità. La piccola chiesa, come ho detto, domina la maggior parte delle case del villaggio. Il cimitero si trova più su della chiesa ed è inverosimilmente affollato di lapidi poste verticalmente. La cappella, o chiesa che dir si voglia, vanta un'antichità maggiore di qualsiasi altra in quella parte del regno, ma oggigiorno di questa antichità non si scorgono tracce esteriori se non nelle due finestre che guardano a oriente e non sono state rimodernate, e la base del campanile. All'interno le caratteristiche dei pilastri indicano chiaramente una data anteriore a quella del regno di Enrico VII. È probabile che su quell'area sorgesse, in un tempo ancora più antico, una chiesa campestre, ossia un oratorio, e a York, dal registro dell'arcivescovo, si ricava con certezza che a Haworth vi era una cappella del 1317. Gli abitanti ricordano che alcuni ricercatori si sono interessati della seguente iscrizione scalpellata su una pietra della torre campanaria: Hic fecit cenobium monachorum auteste fundator AD sexcentissimo, il che equivarrebbe a dire prima che il cristianesimo venisse predicato nella Northumbria. Alcuni pensano che l'errore dipenda dall'ignoranza dello scalpellino, che in età moderna riprodusse un'iscrizione tracciata coi caratteri in uso ai tempi di Enrico VIII, simili a quelli che ancora si vedono su una pietra adiacente, Orate pro bono statu euteste tod. Cito: oggi qualsiasi studioso sa che le parole bono statu, contenute in una formula di preghiera, si riferiscono a una persona ancora in vita. Ritengo dunque che lo strano nome di battesimo derivi dall'errore di copiatura di un corretto austet, contrazione di Eustatius, ma che la parola tod risulti da una errata lettura delle cifre arabe 600 e sia perfettamente e giustamente interpretabile come tale. La gente del luogo fondò probabilmente la pretesa di indipendenza che la indusse a contestare al vicario di Bradford il diritto di nominare il parroco di Haworth su una stolta pretesa di antichità. Ho trascritto quanto sopra per stabilire su quale base immaginaria, circa 35 anni fa, vi fu in Haworth un sollevamento di cui avrò successivamente l'occasione di scrivere più ampiamente. L'interno della chiesa non offre alla vista nulla di particolare. Non è abbastanza moderna né sufficientemente antica da attirare l'attenzione. I banchi, separati da alte spalliere, sono di quercia nera, coi nomi dei proprietari scritti in vernice bianca sugli sportelli che li chiudono verso la navata centrale. Non si vedono né targhe d'ottone né tombe ad altare, nessun monumento, ma a destra della mensa per la comunione vi è una lapide murale con la seguente iscrizione: qui giacciono i resti mortali di Maria Bronte, sposa del reverendo Bronte, ministro di Haworth. La sua anima dipartì alla volta del Salvatore, settembre 15, 1821, nel suo 39° anno di età. Qui giacciono anche i resti mortali di Maria Bronte, figlia della suddetta. Essa morì il 6 maggio 1825, nel suo 12° anno di età, e di Elizabeth Bronte, sua sorella, che morì il 15 giugno 1825, nel suo 11° anno d'età. Qui giacciono anche i resti mortali di Patrick Bronwell Bronte, che morì il 24 settembre 1848, in età di 30 anni, e di Emily Jane Bronte, che morì il 19 dicembre 1848, in età di 29 anni, figlio e figlia del reverendo Bronte, beneficiario. Questa lapide è anche dedicata alla memoria di Anne Bronte, ultima nata del reverendo Bronte. Essa morì in età di 27 anni il 28 maggio 1849 e fu sepolta nella vecchia chiesa Scarborough. Nella parte superiore della lapide le righe dell'iscrizione sono ampiamente spaziate. Quando i primi epitafi erano stati scritti, i superstiti, nel loro tenero affetto, poco si erano preoccupati di lasciare margine e spazi per i nomi di quelli che ancora erano in vita, ma a mano che i membri della famiglia si erano susseguiti in rapida successione nella morte, le righe erano ravvicinate. Le lettere si erano contratte. Dopo la registrazione della morte di Anne non era rimasto spazio per alcuna altra iscrizione, ma ancora una di quella generazione, l'ultima della nidiata dei 6 bambini orfani di madre, doveva seguire gli altri prima che il sopravvissuto, vedovo e padre, orbato di tutti i figli, entrasse anch'egli nell'eterno riposo. Un'altra lapide, posta sotto la prima, è stata aggiunta al doloroso elenco. Qui, vicino, giacciono i resti mortali di Charlotte, sposa del reverendo Arthur Bell Nichols e figlia del reverendo Bronte. Essa morì il 31 marzo 1855, nel 39° anno di età. Capitolo 2. Accingendomi a narrare la vita della mia cara amica Charlotte Bronte, penso che per presentarla da un giusto punto di vista sia necessario, nel suo, ancor più che in molti altri casi, informare la lettrice circa le caratteristiche della popolazione e della società in seno alle quali ella trascorse l'infanzia insieme alle sorelle, ricavandone le prime impressioni. Come premessa al mio lavoro tenterò dunque di dare un'idea di come sia fatta la gente di Haworth e dei dintorni. Perfino gli abitanti della vicina contea di Lancaster sono sorpresi dalla peculiare forza di carattere degli Yorkshireani, che, interessanti come gruppo razziale, presi individualmente, respingono il forestiero con l'intransigente indipendenza di cui fanno mostra, ostentando un'arrogante autosufficienza. Scrivo la parola autosufficienza a ragion veduta e nella più ampia accezione del termine. Ogni nativo del West Riding è conscio dell'acuta sagacia e della ostinata forza di volontà che sembrano appartenergli per diritto di nascita. Ciascuno conta su se stesso, rifugge dall'aiuto dei vicini, evita di richiedere l'appoggio altrui, dubita della propria facoltà di concedere il proprio, grazie al successo generalmente conseguito con il solo sforzo personale. Sopravvalutandone le possibilità, tende a darne per scontato il risultato positivo. Appartiene a quella categoria di individui dallo spirito penetrante e tuttavia miope, che ritiene cosa saggia il porre in dubbio l'onestà altrui se non la si è prima messa alla prova. Hanno il massimo rispetto per le qualità pratiche, ma diffidano di qualsiasi comportamento che sia nuovo per loro ed estendono la prudenza perfino alla valutazione delle virtù. E se praticandole non ottengono immediatamente un tangibile risultato positivo, le accantonano come inadeguate al frenetico campo di azione che è questo nostro mondo, e ciò tanto più se sono di carattere passivo anziché attivo. Gli affetti vi sono forti e hanno profonde radici, ma non vengono estesi a una vasta cerchia. Tali affetti, d'altronde, lo sono raramente. E non si indulge in dimostrazioni esteriori. In verità, le amenità che l'esistenza può offrire trovano poco posto in seno a questa nuda, selvatica popolazione. Il primo contatto individuale con un qualsiasi suo membro è brusco. L'intonazione delle voci è secca, l'accento è aspro. Questo, fino a un certo punto, può essere causato dalla libera aria montana che si respira in quel luogo e dalla vita isolata che la gente conduce sulle pendici di quelle colline, ma può anche essere effetto dell'eredità, ancor viva in loro, lasciata dai lontani antenati vichinghi. Sono capaci di intuire prontamente quale sia l'indole di chi li avvicina. Hanno un acuto senso dell'umorismo. Chi vive fra loro deve essere preparato ad accettarne eventuali osservazioni fatte senza peli sulla lingua, in forma oracolare e per lo più azzeccate. Non è facile destare in loro un qualsiasi sentimento, ma una volta nato, esso è duraturo. Ne conseguono amicizie strettissime e fedeli prestazioni. Per dare un'idea corretta del modo in cui queste vengono attuate, basta ricordare al lettore il personaggio di Joseph in Cime Tempestose. Naturalmente anche i rancori sono ostinati e in alcuni casi giungono fino a un odio tramandato di generazione in generazione. Ricordo che una volta Miss Bronte mi riferì un detto ricorrente a Haworth: metti una pietra in tasca per 7 anni, girala e conservala per altri 7 anni affinché sia sempre pronta sotto le tue dita per quando il tuo nemico giungerà a tiro. Gli uomini del West Riding, messi sulla pista del denaro, sono veri segugi. Miss Bronte illustrò mio marito fin dove può giungere questa loro brama, narrandogli il seguente aneddoto. un piccolo manifatturiero di sua conoscenza, impegnatosi in varie speculazioni che tutte avevano sortito buon esito, conquistò una apprezzabile ricchezza. Giunto oltre la mezza età, contrasse un'assicurazione sulla vita. Poco dopo il ritiro della polizza, si manifestarono in lui i sintomi di un male acuto che, senza alcun dubbio possibile, lo condannava a morire in brevissimo tempo. Il medico, dopo aver esitato alquanto, gli rivelò la sua condizione disperata. «Accidenti!» esclamò lui con uno scatto improvviso dell'antica energia. «Così metto nel sacco la compagnia assicuratrice. Sono sempre stato un uomo fortunato!» Questi individui costanti e accorti, ostinati e perseveranti nel perseguire uno scopo buono, diventano feroci nell'inseguirne uno cattivo. Non sono emotivi, non li si acquista facilmente né come amici né come nemici, ma una volta dato il loro affetto o il loro odio, ben difficilmente cambiano sentimento. Appartengono a una schiatta dal temperamento e dal fisico fortissimo, sono tetragoni tanto nel bene quanto nel male. La lavorazione della lana fu introdotta in questo distretto durante il regno di Edoardo III. È tradizione che in quel tempo venne a stabilirsi nel West Riding un gruppo di fiamminghi per insegnare agli abitanti del luogo a lavorare la lana. L'attività mista, agricola e manifatturiera, che ne derivò, vista in retrospettiva, non è priva di attrattive. Vi durò fino a pochi decenni fa. Ne perdura un ricordo generico, mentre i particolari della vita di allora sono quasi dimenticati. Vengono messi in luce da alcuni pochi che esplorano zone remote dell'Inghilterra dove se ne conserva la pratica. Il quadro della padrona di casa che siede con le ancelle alle grandi ruote da filare, mentre il marito è fuori intento ad arare i campi o sorvegliare il gregge sparso sulla landa porporina, è molto poetico contemplato a distanza, ma quando di un simile regime di vita giunto alla soglia dei nostri giorni udiamo descrivere da labbra contemporanee usi quotidiani improntati a inimmaginabile rozzezza, quando tocchiamo con mano la stranezza di tanta rusticità unita a grande acume commerciale e veniamo informati del clima di totale anarchismo derivato dal disprezzo di qualsiasi legge, l'idillico quadro di bucolica innocenza e semplicità si appanna non poco ai nostri occhi. Tuttavia, siccome sono i comportamenti peculiarmente apprezzati di un dato periodo quelli che lasciano le più profonde impronte nella memoria dei posteri, sarebbe un errore e secondo me una mancanza di obiettività il concludere che tale o tal'altro modo di vita, nonostante gli abusi che consentiva, non sia stato opportuno nel momento in cui prevalse. Tanto più che l'eccesso stesso degli abusi, insieme col graduale progresso della società umana, fortunatamente tende a sopprimerli e a rendere inaccettabile il tentativo di tornarvi, così come sarebbe impensabile per un uomo fatto riprendere a vestire i panni di quando era bambino. La patente concessa al consigliere municipale Cocaine o le restrizioni imposte da Giacomo I ai tessuti di lana, non sottoposti a tintura, danneggiò gravemente gli interessi dei manifatturieri del West Riding. La loro indole indipendente, l'avversione a ogni forma di autorità, la forte capacità di concentrazione mentale li indusse alla ribellione contro i decreti di Laud e all'arbitrario governo degli Stuart. Il danno cagionato da Giacomo I e da Carlo I al loro commercio ne trasformò la grande maggioranza in sostenitori del Commonwealth. Avrò occasione successivamente di riferire alcuni esempi dell'intensa partecipazione e della vasta informazione in politica sia interna che esterna che si nota fra gli abitanti dei villaggi a est e a ovest del crinale montuoso che separa lo Yorkshire dal Lancashire, le cui popolazioni sono di una stessa razza e possiedono le medesime caratteristiche. I discendenti di coloro che servirono al comando di Cromwell a Dunbar vivono sulle stesse terre che i loro antenati occupavano allora e forse non vi è alcun'altra parte dell'Inghilterra in cui il tradizionale amato ricordo del Commonwealth perduri come in quella abitata dalla popolazione che impiegata nella lavorazione della lana del West Riding vide le restrizioni imposte al loro commercio rimosse dall'ammirevole politica del protettore. So da buona fonte che meno di 30 anni fa il detto «ai tempi di Oliver» era di uso comune, alludendo a giorni di eccezionale prosperità. I nomi caratterizzano il culto religioso cui aderiscono coloro che li hanno imposti. Vi sono inoltre numerosi documenti che fanno fede della cordialità con cui i parroci, estromessi dalle loro sedi, vi furono accolti da tutti, nobili e umili indistintamente, durante la persecuzione voluta da Carlo II. Tutti questi particolari testimoniano la tradizionale indipendenza di spirito tipica della gente del West Riding, sempre pronta a resistere all'autorità quando la considera esercitata arbitrariamente.